Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, ci eravamo lasciati con il caso Cancellieri che montava venerdì e adesso naturalmente ci ritroviamo di nuovo col caso Cancellieri perché si voterà tra due giorni la mozione di sfiducia alla Camera. In più c'è l'incognita PD. Poi cercheremo di capire qualcosa di più con un esponente del PD che sentiremo tra poco in diretta. Nel frattempo c'è stata la ormai annunciata da tempo scissione del PDL in due parti, Forza Italia da una parte, Nuovo Centrodestra dall'altra. Vedremo un po' quali saranno le loro intenzioni, i loro rapporti, anche se potete commentare sulla pagina di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano. Secondo voi sono effettivamente separati o una separazione in casa poi per cui potranno riallearsi in vista delle elezioni, no? Una divisione un po' strana quella per poi rimettersi insieme. Quindi i vostri commenti Effetto Notte trattino Roberta Giordano o con gli sms 349-238-6666. Poi ci sono stati i vari tornado negli Stati Uniti con quello che hanno causato, ma il maltempo arriva anche in Italia. C'è stato un ciclone sulla Sardegna, è crollato il ponte a Olbia, auto nel fiume, una donna purtroppo è morta in una casa allagata. Insomma, ce n'è tantissima anche stasera, vi ricostruisco prima la giornata, poi approfondiremo certi argomenti in particolare. Iniziamo come sempre dai titoli dei fatti principali. Quindi il caso Cancellieri Ligresti, PM di Torino che si occupano dell'inchiesta sulla famiglia Ligresti dicono la ministra non è indagata. Il presidente del Consiglio Letta intanto fa sapere, in caso di novità valuteremo, e Alfano annuncia sosteniamo la ministra. Spending Review, ecco il piano Cottarelli del commissario straordinario, cioè per la revisione della spesa, e il ministro Saccomanni annuncia tagli per 32 miliardi in tre anni. Partito Democratico, dal voto nei circoli arriva la prima vittoria per Renzi. A Parigi da stamattina si svolge una forsennata caccia all'uomo, la polizia sulle tracce dell'attentatore che ha sparato nella redazione del quotidiano Libération e alle Défense. E poi ve l'ho detto, il maltempo, in particolare sulla Sardegna, con una vittima, una donna che è morta in una casa allagata. E il calcio, Mondiale 2014, Prandelli allontana Totti, il tempo dice passa per tutti. E poi vi ricordo anche che a Londra c'è un test per gli azzurri, un amichevole tra Italia e Nigeria, al momento sono 0-0. Ma partiamo quindi, dicevamo, dalla vicenda Cancellieri Ligresti, sempre al centro della scena politica. La ministra della giustizia non è stata iscritta nel registro degli indagati dalla Procura di Torino, ma servono approfondimenti e la polemica politica, come vi dicevo, è tutt'altro che spenta. Non è indagata, ma il caso politico rimane, non si escludono le dimissioni, nessuna inchiesta a carico di Anna Maria Cancellieri dalla Procura di Torino, non c'è ipotesi di reato in quella telefonata che il ministro della giustizia fece per Giulia Ligresti. Il fascicolo passa adesso a Roma, eppure è sempre più forte il malcontento e l'imbarazzo sul ministro che, secondo il Financial Times, potrebbe dimettersi prima di mercoledì, quando è previsto il voto sulla mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle. A sostenere il ministro invece il Nuovo Centrodestra, così Enrico Costa. Valuteremo con attenzione gli elementi, ma mi pare che non ci sia nessuna innovazione sostanziale rispetto a quello che abbiamo sentito. Quindi non vediamo ragioni per cui possa essere modificata la nostra posizione. Diviso il PD, uno dei candidati alla segreteria, Pippo Civati, presenterà una mozione di sfiducia individuale, mentre tra i centristi Mario Monti parla di telefonate inopportune. Palazzo Chigi conferma però la fiducia al ministro, la posizione non cambia, ribadiscono fonti governative, ma si valuterà con attenzione eventuali novità, ovvero se il ministro dovesse dimettersi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ed è un'agenzia di questi istanti, Alfano, il nuovo segretario del Nuovo Centrodestra, dice: se fossi nella Cancellieri non mi dimetterei. E sul caso Cancellieri il presidente del Consiglio Letta ha sottolineato che la fiducia confermata alla ministra resta, in caso di novità valuteremo. Ed è poi intervenuto oggi Letta sui temi dell'attualità politica ed economica. Prima la platea di un importante quotidiano internazionale, quindi la cerimonia per i 90 anni del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Occasioni queste per il Presidente del Consiglio Letta per intervenire sulla stretta attualità, le fibrillazioni nella maggioranza da una parte, il momento economico del Paese dall'altra. Quanto al primo tema, la scissione nel Popolo della Libertà, la nascita di Forza Italia e del Nuovo Centrodestra, secondo Letta tutto ciò aiuterà la stabilità in Italia. Il capitolo Partito Democratico, poi, non sono in competizione con Renzi per la premiership, spiega il Presidente del Consiglio. Sul fronte economico Letta difende quindi la legge di stabilità ed annuncia l'arrivo in settimana di un piano per le privatizzazioni. L'anno prossimo il debito italiano riscenderà per la prima volta dopo 5 anni grazie al piano di privatizzazione di spending review che faremo. Credo che sia un messaggio forte che vogliamo dare a tutti coloro che quotidianamente comprano il nostro debito sui mercati. Alla cerimonia per i 90 anni del CNR il Presidente del Consiglio promette poi più risorse per la ricerca nella manovra. Dopo i tagli, dice Letta, lavoriamo su questo aspetto ad un'inversione di marcia. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Slitta intanto l'approdo in aula al Senato della legge di stabilità, il cui esame in Commissione Bilancio dovrebbe concludersi giovedì 21 novembre. La conferenza dei capigruppo tornerà a riunirsi venerdì alle 9, ma non ha modificato il calendario, confermando quindi, fra le altre cose, il voto sulla decadenza di Berlusconi per il 27 di questo mese, per il 27 novembre. E ora concentriamoci sul PD. Circoli hanno scelto Renzi come segretario. Cuperlo ha sostanzialmente il 38,4%, Renzi il 46,7%, Pittella sta leggermente sotto il 6%, Civati 9,19%. Non legge in ordine le percentuali il responsabile organizzazione del PD Davide Zoggia, comunicando il voto dei circoli, quello della base del partito. Voto che, lo avete sentito, premia Renzi con 8 punti più di Cuperlo, che si difende però nelle roccaforti rosse e conquista le grandi città, Milano e Roma su tutte. In 7.000 circoli PD hanno votato poco meno di 300.000 iscritti e ancora restano aperti i risultati ad Asti, Rovigo, Frosinone, dove nei giorni scorsi si sono segnalate anomalie nel tesseramento. Per Renzi comunque verrebbe da dire ottimo fieno in cascina, mentre Cuperlo parla di partita ancora aperta. Le tappe del complicato meccanismo di voto ora prevedono la ratifica dei dati domenica prossima nella convenzione nazionale, che estrometterà uno dei candidati in lizza, il meno votato Pittella probabilmente. L'ultima parola poi alle primarie dell'8 dicembre. Annalita Rambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Tanto, come vi dicevo all'inizio, il nuovo centrodestra muove i primi passi, gli alfaniani si contano e delineano la loro strategia. La squadra degli alfaniani leali al governo al Senato è costituita da 30 senatori, tra i quali Roberto Formigoni, Carlo Giovanardi, Gaetano Quagliariello, Maurizio Sacconi e l'ex capogruppo PDL Renato Schifani. A Palazzo Madama la presidente Laura Bianconi, senatrice di GAL, Grandi Autonomie e Libertà. Il suo omologo alla Camera è Enrico Costa. 29 deputati, tra i quali, oltre ad Angelino Alfano, Fabrizio Cicchitto, Nunzia De Girolamo, Beatrice Lorenzin, Maurizio Lupi. Quest'ultimo è intervenuto oggi per chiarire le linee del neonato gruppo. La caratteristica della nuova centrodestra non è quella di essere nata per chiedere rimpasti o non rimpasti, ma è quella di dare un grande contributo di nuova classe dirigente e di aiuto a chi sta governando bene sul proprio territorio. Maurizio Lupi ha parlato da Milano, dove oggi è stato dato l'ok politico alla formazione dei nuovi gruppi usciti dalla scissione nel PDL, che dovrebbe essere formalizzata la prossima settimana. Al Pirellone, dei 19 consiglieri PDL, 10 costituiranno il gruppo di Forza Italia e 9 quello del nuovo centrodestra, così il governatore Maroni. Sono molto interessato agli sviluppi di quella che ho definito la nuova partita, il cui fischio d'inizio è stato dato sabato nel nuovo centrodestra. Stando alle parole di Roberto Formigoni, anche in Piemonte e Veneto circa la metà dei consiglieri regionali ex PDL aderiranno al nuovo centrodestra. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E occupiamoci adesso di revisione della spesa pubblica. Si annunciano tagli per 32 miliardi in 3 anni. Il documento del commissario della Spending Review Carlo Cottarelli approda quindi sul tavolo del comitato interministeriale con un obiettivo ambizioso, e questi sono i punti cardine. Dalla mobilità degli statali alla dimensione delle scuole, dalla sanità ai costi della politica, spesa pubblica al setaccio nel dossier del commissario alla Spending Review Carlo Cottarelli. Obiettivo per il periodo 2004-2016, un risparmio di spesa di circa 2 punti percentuali di PIL rispetto al 2013, 3,6 miliardi i risparmi nel 2015, 8,3 nel 2016, 11,3 nel 2017. Tra i settori sui quali si immaginano tagli a breve deve figura la sanità, per la quale si lavora ad un'accelerazione per i costi standard, e poi la razionalizzazione nell'utilizzo degli uffici e la spinta per una maggiore centralizzazione degli acquisti, e ancora un sistema di incentivi per i tagli negli enti e classifiche dei centri di spesa virtuosi, previsti corsi di formazione ad hoc per aumentare la flessibilità gestionale dei dirigenti pubblici, con l'obiettivo di trasformarli in veri manager della spesa pubblica, interessati non solo al rispetto formale delle regole contabili, ma anche al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità dei servizi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. E prima di sentire che cosa ha detto Saccomanni sulla spending review, vi do un aggiornamento sulla Sardegna, dove c'è un furioso maltempo. La Protezione Civile ha parlato di almeno 5 dispersi a Olbia, e prima avevamo detto che c'è già una vittima accertata, che è una donna che è morta nella sua casa allagata. Ritorniamo alla spending review, sentiamo cosa ha detto il ministro dell'Economia Saccomanni sugli obiettivi, appunto, di questa revisione della spesa pubblica. L'obiettivo, come ho detto, è quello di essenzialmente di migliorare la qualità dei servizi, di ridurne il costo, e diciamo i risparmi di spesa che vengono ottenuti in questo modo dovranno andare nella maggior parte alla riduzione delle imposte, come era stato previsto e indicato più volte, e diciamo ma anche al finanziamento di investimenti produttivi e alla riduzione del debito. Quindi queste sono le tre finalità strategiche, di cui naturalmente la più importante è la prima, ma le altre sono anche da non trascurare. E ora spostiamoci all'estero. A Parigi da questa mattina è in atto una furibonda caccia all'uomo. Bisogna fermarlo perché potrebbe colpire ancora, così ha detto il presidente François Hollande sull'uomo armato che sta seminando il panico nella capitale transalpina. Ma di questo poi parleremo dopo, collegandoci direttamente con Parigi. Parliamo invece degli Stati Uniti, dove decine di tornado si sono abbattuti sul Midwest, 6 vittime, centinaia tra feriti e dispersi. Il vento ha spazzato una decina di stati e ha colpito in particolare l'Illinois, dove si sono registrate le vittime. Il maltempo si sta spostando ora verso la costa orientale degli Stati Uniti. Cioè, per quanto riguarda invece Mosca, c'è un accordo in vista con Kiev sul gas. L'Europa rischia di restare tagliata fuori dalla manovra diplomatica russa. L'Europa può attendere, la Russia invece è meglio non farla aspettare. Il 28 novembre l'Ucraina avrebbe dovuto finalizzare un accordo di associazione e libero scambio con l'Unione Europea, che comportava la liberazione di Yulia Tymoshenko, la grande rivale del presidente Yanukovych, condannata a 7 anni di carcere per abuso di potere. Condanna che per i leader europei ha motivazioni politiche. Liberare la Tymoshenko è una delle condizioni cruciali di Bruxelles per dare il via all'integrazione, il primo grande passo formale verso l'Europa compiuto dall'ex Repubblica Sovietica. Alla firma mancano pochi giorni, ma la Tymoshenko resta in carcere e a Bruxelles i ministri degli esteri premono su Yanukovych perché firmi una legge che le consenta almeno di lasciare il paese per curarsi in Germania. Ma il tempo stringe e dietro il caso Tymoshenko potrebbe nascondersi la vera scelta dell'Ucraina, che tra la UE e le pressioni di Mosca potrebbe aver deciso di cedere a queste ultime. Antonella Scotto, Radio 24, Sole 24 Ore. Intanto un aggiornamento sulle elezioni in Basilicata per la presidenza della regione. Dal suo quartier generale di Potenza, con la vittoria ormai a un passo, il candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della regione Basilicata, Marcello Pittella, esprime 2 sentimenti: gioia per il risultato e amarezza per il marcato astensionismo. Pittella, che è fratello di Gianni Pittella, uno dei 4 candidati alle primarie del PD. Andiamo allo sport adesso per chiudere. Pagina dello sport che si apre col vertice di oggi a Milano tra la Lega Calcio, il ministro dell'Interno e il capo della polizia Pansa. All'ordine del giorno la violenza negli stadi e il futuro dell'impiantistica sportiva in Italia. 3 punti per rivoluzionare gli stadi italiani, che domani saranno subito inseriti nella legge di stabilità. Impiego di capitali privati per la costruzione di nuovi impianti sportivi, apertura di attività commerciali interne e semplificazione delle procedure. Dall'incontro tra il ministro degli interni Angelino Alfano con la Lega Calcio emerge la volontà di creare uno stadio a misura di famiglia sul modello inglese. E poi si è discusso del capitolo sicurezza, dall'omicidio dell'ispettore Raciti, ucciso nel 2007 durante gli scontri con gli ultras catanesi, secondo il vice premier, il quadro è migliorato. Il miglioramento dal punto di vista dell'ordine pubblico si abbini ad un altro aspetto, l'accesso alle famiglie, ai bambini, ai giovanissimi, per coltivare quel senso delle regole che lo sport sano sa trasmetterti. A questo proposito, a breve nascerà una task force tra governo e Lega Calcio. Tra gli obiettivi, il biglietto elettronico per agevolare gli ingressi, potenziamento degli stewards e ulteriore segmentazione degli spalti, così come proposto da Galliani. E sulla tessera del tifoso il vice premier ha ammesso la necessità di riforma. Attenderà dalla Lega i punti su cui occorrerà lavorare. Claudia Vanni, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E dopo l'1-1 di San Siro con la Germania, seconda amichevole questa sera per l'Italia di Prandelli, che a Londra affronta la Nigeria, per il momento conduce l'Italia 1-0 sulla Nigeria. Beh, comunque il CT rilancia in attacco la coppia Balotelli e Giuseppe Rossi, e intervistato in esclusiva da Rai Sport, allontana il possibile ritorno in azzurro di Francesco Totti. I talenti sono la fortuna di tutti gli allenatori, però il tempo passa per tutti, e tutte le volte che abbiamo parlato di Francesco, l'ultima volta non gli abbiamo portato bene, purtroppo si è fatto male, quindi non parliamo di Francesco in questo momento, che deve recuperare con serenità, e parliamo di quei giocatori che abbiamo. Insomma, si invecchia praticamente. Allora, adesso ci fermiamo per aggiornare chi sta viaggiando. E dopodiché sappiate che c'è la possibilità di esprimere come sempre le vostre libere opinioni sulla pagina Facebook di Effetto Notte, per riconoscere trattino Roberta Giordano, PDL diviso, scisso in due, Nuova Centrodestra e Forza Italia dall'altra parte, sono divisi o prima o poi si rialleeranno in vista delle elezioni? C'è anche il numero per i messaggi, 349-238-6666. Tra pochi istanti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra poco cominciamo ad approfondire i temi politici, però vi ricordo come sempre quali sono i fatti principali di oggi. Iniziando dal maltempo che si è abbattuto in particolare sulla Sardegna, un ciclone, addirittura è morta una donna e 5 sono i dispersi. E poi c'è sempre in primissimo piano il caso Cancellieri Ligresti, PM di Torino, che si occupano dell'inchiesta, dicono la ministra non è indagata. Il presidente del Consiglio Letta fa sapere, in caso di novità valuteremo, e Alfano annuncia sosteniamo la ministra. Spending Review, ecco il piano Cottarelli presentato dal commissario straordinario appunto per la revisione della spesa, e il ministro Saccomanni annuncia tagli per 32 miliardi in 3 anni. Partito Democratico, dal voto nei circoli arriva la prima vittoria per Renzi. A Parigi da stamattina si svolge una forsennata caccia all'uomo, la polizia è sulle tracce dell'attentatore che ha sparato nella redazione del quotidiano Libération e alla Défense. E poi per il calcio, a Londra amichevole tra Italia e Nigeria, per il momento in vantaggio l'Italia per 1-0. Salvatore Merlo, buonasera. Buonasera. Salvatore Merlo, commentatore politico del Foglio, particolarmente attento, diciamo, alle vicende, alle vicissitudini del centrodestra. A questo punto, Salvatore, che ne pensi? Avevi parlato tu di un suicidio perfetto quando si annunciava, no, giorni fa, questa scissione più o meno inevitabile, ora ormai è consumata. Il suicidio perfetto non si riferiva tecnicamente alla scissione, ma a un clima di insulti, di gravità, una spirale nella quale, un avvitamento nel quale si è trovata questa classe dirigente, questi uomini che condividevano un progetto politico e che si sono improvvisamente trovati gli uni contro gli altri. Tuttavia, diciamo, l'esito di questa storia non è stato drammatico, eh. Cioè, si separano, si abbandonano, eppure non si dicono addio. Infatti così pare, no? Perché mi pare che già abbiano parlato Berlusconi e Alfano di una possibile alleanza, penso che questa è inevitabile in vista di eventuali elezioni, o sbaglio, Salvatore? No, è così, cioè, l'uno recita il dolore per un figlio perduto, mentre l'altro interpreta il tormento per un padre che rifiuta l'abbraccio, ma insomma la scissione del PDL in realtà non ha la cupa grandezza del dramma. Berlusconi non è Duncan, né tantomeno Angelino Alfano è il Macbeth. Cioè, uno non sa uccidere e l'altro non si fa uccidere. E piuttosto questa storia rimanda all'idea del caos, cioè Berlusconi impone alla politica italiana il suo gioco caotico, ed è la materia, il caos è la materia impalpabile sulla quale Berlusconi è l'unico che riesce a tenersi a galla, quindi è di lotta e di governo. Ha un, per lui l'uovo della politica italiana, per Berlusconi, o si rompe dall'interno, dove ha Alfano, o si rompe dall'esterno, dove ci sono adesso Fitto, la Santanchè, eccetera. Lui gioca su due piani, e questa è una strategia che negli ultimi mesi è stata remunerativa per il centrodestra, da un certo punto di vista, perché la sentenza Mediaset, la sentenza di Cassazione che ha condannato Silvio Berlusconi in via definitiva, è di agosto. La legge Severino impone la decadenza immediata e adesso siamo arrivati praticamente alla fine di novembre e ancora Berlusconi è senatore. E se è riuscito, diciamo, a prendere tanto tempo è anche perché sta al governo e perché ha animato questo doppio gioco e ha tenuto in piedi questo doppio binario. In realtà il gioco tra questa partita di ping pong tra lui e Alfano, questa partita nella quale l'Italia politica ha forse l'impressione di essere la pallina stranita, è destinata ancora a durare a lungo. Ti leggo intanto, Salvatore, alcuni messaggi sia al 349-238-6666 sia sulla pagina Facebook, giusto così per capire cosa pensano gli ascoltatori. Dice Christian da Brescia: secondo me la scissione del PDL è solo fittizia, in quel modo si sostiene il governo da una parte, si ha mano libera sui potenziali elettori sia a nord che a sud, per poi trovare una casa comune. Poi mi dici, Salvatore, se pensi che ci sia qualche fondamento a questa tesi. No, che sia finto, no. Non è una finzione, e Berlusconi non ha deciso cosa vuole fare, non ha deciso se gli conviene far cadere il governo, se tenerlo in piedi. Aspetterà la decadenza, dici, quindi il 27? Aspetta di capire se può guadagnare ancora del tempo. Questa è una speranza che Berlusconi in realtà condivide anche con, credo, con il Presidente del Consiglio, Enrico Letta. Letta vede quella data come, dire, è una, per lui ci sono delle scadenze che disegnano un percorso di guerra. Mercoledì il voto di sfiducia, dopodomani al ministro Cancellieri, poi il 27 la decadenza di Berlusconi, e poi l'8 dicembre la vittoria scontata di Matteo Renzi alle primarie. Questo è il rullino di marcia di Enrico Letta, e è evidente che se riuscisse a evitare che il 27 Berlusconi decada, è chiaro che Letta vuole durare, sa che quello è un passaggio complicato. Stai parlando un po' di opportunismo, quindi, Salvatore Mello, diciamo fuori dai denti, o no? Anche. No, non è opportunismo. La necessità di andare avanti, come la vogliamo leggere? È la necessità di andare avanti. Lui deve, vuole governare legittimamente, quindi spera, ovviamente non è che Letta ha delle leve o può muovere delle leve per evitare che Berlusconi decada il 27, però è legittimo immaginare che spera che il 27 non ci sia, diciamo, l'esplosione atomica. Lui da un certo punto di vista si è garantito, perché si è garantito i voti del gruppo di Alfano, no? Tuttavia sa bene che se Berlusconi dovesse mettersi all'opposizione su una proposta politica che Berlusconi ha, come dire, un po' accennato l'altro giorno, no? Ha detto che la Germania ci impone il nodo scorsoio dell'austerità, ha detto che l'euro è per gli italiani una, come se fosse una moneta straniera, quindi ha fatto intendere che esiste all'orizzonte la possibilità di una campagna elettorale o di un suo posizionamento su una linea d'onda anti-europea, un po' come Beppe Grillo. Allora è evidente, se io fossi il Presidente del Consiglio mi spaventerei all'ipotesi di avere, di continuare a essere alleato, questi due mostri comunicativi, no? Grillo e Berlusconi. Ah, dici nel caso appunto fosse l'opposizione. Salvatore, leggo ancora qualche messaggio. Sono separati in casa, Berlusconi farà di tutto per riunirli, però se decade lo arrestano, i lealisti spariranno. Aspetta a rispondere. Poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, Vittorio scrive: sarebbe meglio assicurarsi, cosa dicono Monsignor Fisichella e Monsignor Ruini, qui se ne fa anche qui una questione di opportunismo. Floriano dice: sono come ladri di Pisa, forse questa citazione magari letteraria a me sfugge. Massimo: beh certo, mica si alleano col PD, quindi si riuniranno tra di loro. Quindi su questa cosa dei lealisti che potrebbero sparire, secondo te non è più facile invece che i governativi possano sparire in caso di decadenza. Insomma, se ci fosse questa decadenza, chi avrebbe la peggio, a parte Berlusconi? La decadenza li ricompatta, perché anche Alfano vota contro la decadenza di Berlusconi, e lì loro ritrovano l'unità. Quindi diciamo, la decadenza di Berlusconi non è un problema, è un momento di fraterno abbraccio tra il gruppo di Alfano e il resto del partito che è rimasto con Berlusconi. Diventa un problema per il Partito Democratico, questo sì. Cioè, se Berlusconi si mette all'opposizione diventa molto molto complicato, perché a quel punto resta soltanto il PD, come dire, quel fuscelletto del PD a difesa della stabilità, la legge di stabilità del governo. No, dico, avrebbero Berlusconi e Grillo su una piattaforma anti-euro e anti-Europa contro il governo, e a difesa di questo governo resterebbe solo il PD che è, diciamo, ha attraversato il deserto delle elezioni primarie, si è consegnato, perché succederà, è evidente, a Matteo Renzi. E Matteo Renzi che farà a quel punto? Che trovandosi fa? Stretto da un lato tra, come dire, l'antieuropeismo della destra grillante e dall'altro l'euroflemma di Letta, che farà? Si schiaccerà sul governo? Lo difenderà? Mettendo a rischio le sue ambizioni, mettendo a rischio il suo stesso futuro, dato che, lo sappiamo tutti, Renzi considera la segreteria del PD soltanto un trampolino di lancio verso Palazzo Chigi. Quindi Letta guarda quella data con certa preoccupazione, con terrore, preoccupazione, perché si troverebbe i tre mostri in scontro, che sia anche Renzi a quel punto. Quindi l'Alfan prodige, come l'hai definito tu, con un'espressione molto accattivante, l'Alfan prodige, quindi al momento secondo te è un figlio che si è un po' distaccato dal padre, ma forse ancora tredicenne, deve diventare ancora maggiorenne, mi sembra di capire, da quello che dici Salvatore Merlo. Alfano, la storia, la biografia di Alfano è quella di un giovane che veniva da Agrigento, che arrivò a Palazzo Grazioli da assistente particolare di Berlusconi e ha sempre avuto con Berlusconi un rapporto di sudditanza, diciamo, il loro rapporto gli ha sempre dato del lei. Non ce la faceva più, però, non ce la faceva più. Gregario che dava del lei al padre, padrone, padrino politico, e quindi è molto sorprendente quello che è successo, cioè è passato, diciamo, dal togliersi il cappello, tutta una serie di inchini, moine, porte tenute spalancate, passettini, a questo, a trattare a tu per tu con Silvio Berlusconi, con questa maestà che lui ha sempre, col quale lui non si è mai posto in termini paritari. E quindi è, come dire, una di quelle trasformazioni, di quei fenomeni evolutivi che stupiscono gli osservatori, ma stupisce persino Berlusconi, che l'altro non giorno ha detto non me la sarei mai aspettata. Senti, l'ultima cosa proprio sinteticamente, Paolo da Milano dice scissione uguale a doppio rimborso elettorale, poi vedremo se avremo tempo di sentire anche un servizio su questa cosa, sulla questione dei soldi. Dimmi solo, sarà così? Proprio in sintesi? Non capisco che vuol dire, cioè, per avere rimborsi elettorali bisogna partecipare alle elezioni, quindi ancora le elezioni non ci sono state. Quindi Paolo, sta tranquillo, da Milano vedremo un po' che cosa succederà. Salvatore Merlo, intanto ti ringrazio, poi ci sarà modo di riaggiornarsi sulle vicende. Grazie, ciao, a voi. Ciao Salvatore, buona ciao. Serata, ciao. E c'è sempre la pagina Facebook, Effetto Notte, e intanto però abbiamo la pubblicità e poi ritorniamo su altri argomenti. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E c'è sempre la pagina Facebook per le vostre libere opinioni, anche per spunti, per riflessioni. Effetto Notte - Roberta Giordano. Tra poco passeremo dal centrodestra al centrosinistra, o meglio al PD. Però prima vi ricordo i fatti principali della giornata. Iniziando purtroppo dal maltempo, con questo ciclone che si è abbattuto sulla Sardegna, c'è una donna vittima al momento e 5 dispersi, crollato un ponte a Olbia e un'auto è finita nel fiume, ci sono decine di strade chiuse e paesi isolati. E poi per le regionali in Basilicata, Pittella del PD al momento è oltre il 60%. Il caso Cancellieri Ligresti sempre in primo piano, i PM di Torino si occupano dell'inchiesta sulla famiglia Ligresti, dicono la ministra non è indagata, il presidente del Consiglio Letta fa sapere in caso di novità valuteremo. Spagna Review, commissario straordinario Cottarelli presenta il suo piano per la revisione della spesa e il ministro Saccomanni annuncia tagli per 32 miliardi in 3 anni. Il Partito Democratico dal voto nei circoli arriva la prima vittoria per Renzi. A Parigi l'abbiamo detto, poi ci collegheremo con la città. Da stamattina si svolge una forsennata caccia all'uomo e poi per il calcio, attenzione, l'amichevole a Londra, Italia-Germania, al momento la Nigeria è sopra di 2 gol, cioè in realtà conduce 2-1. Ecco, era prima l'Italia 1-0 poco fa, adesso la Nigeria ha fatto 2 gol. Insomma, abbastanza particolare, diciamo, questo sorpasso, vedremo come va a finire. A proposito di sorpassi, senatrice Laura Puppato, buonasera. Buonasera a voi. Si può dire civatiana, vero? Senza nessun problema, ormai ognuno ha la sua categoria. Sì, più che altro, sì, esatto, è che siamo abituati a standardizzare tutto e a creare categorie, quindi va bene, insomma, anche se Civatti stesso le rifiuta. Però lei possiamo dire che è una sostenitrice, giusto, dei quattro, tra i 4 candidati di Pippo Civati. Sì. Come mai è civattiana, lei, lo posso chiedere? Vabbè, per una ragione evidente, perché abbiamo combattuto insieme le stesse battaglie con Pippo in questi mesi, si è creato un gruppo anche piuttosto coeso che, come dire, ha condiviso una diversa idea di Parlamento e di Partito Democratico con Walter Tocci, con Larry Chiuti, con Mineo, con molte belle figure, insomma, che così, con i quali appunto abbiamo condiviso molto questo percorso, questa strada, e devo dire che in questo programma di Civati, che è peraltro il programma più completo e più sicuramente puntuale anche rispetto ad alcuni temi, come dire, manifestiamo la nostra voglia di guidare il partito e l'Italia cambiando davvero radicalmente il sistema. Quindi direi, per coerenza, sono con Pippo Civati. Mi dice Laura Puppato, senatrice Puppato, giusto 3 delle battaglie che avete fatto insieme, sinteticamente, giusto per titoli. Delle certo. Cose che più condividete, sì. Beh, insomma, abbiamo fatto insieme la battaglia per il tema del Lascia la Baieva, quindi il concetto che un primo viceministro, parliamo di Alfano, ministro degli interni come Alfano, insomma, in doveva quel caso dimettersi. Avrebbe dovuto. Ma sì, questo avviene normalmente in un paese normale, questo è il problema. Quindi noi vorremmo vivere in un paese normale dove le persone pagano semplicemente il loro prezzo, le loro colpe, sanno fare un passo indietro, il tema di missioni non viene importato dall'estero, perché l'unica ministra che per una banalità si è dimessa, voglio ricordare, ecco, l'abbiamo dovuta importare dalla Germania, perché sennò non saremmo riusciti a crearne un autoctono italiano che avesse questa coerenza, appunto questa attenzione alle istituzioni. E poi le altre battaglie con Pippo fanno conto sugli F-35, sui temi costituzionali, insomma sono parecchie le questioni che abbiamo, e soprattutto la volontà e la necessità che abbiamo voluto rappresentare fin dall'inizio di questo governo, vista la differenza, in qualche caso abissale, di scelte politiche inevitabili quando si è 2 partiti come il PD, come l'ex PDL, ora un pezzo Forza Italia, un pezzo Nuovo Centrodestra, insomma, comunque quella cosa lì, quel PDL lì che era evidentemente altro da noi, visto che era il nostro avversario e che avevamo dichiarato ampiamente che non ci saremmo mai andati, non avremmo mai governato l'Italia insieme, invece quando l'abbiamo fatto, pur essendo stati in larga parte costretti a farlo per le ragioni che ben sappiamo, ma è anche vero che, insomma, sempre per citare i tedeschi, visto che purtroppo per noi rappresentano ancora un esempio per molte questioni, loro sono 2 mesi che sono in attesa di costruire insieme un programma di governo che fissi punto su punto, obiettivo su obiettivo, tempo su tempo. E invece per noi è stato un atto di fiducia, e quindi avere fiducia è cosa molto bella, ma in politica è anche pericoloso, perché finisce in realtà per essere, per dare, come dire, per firmare una cambiale in bianco e non avere la certezza che il tuo partner oggi, ieri avversario, abbia davvero le tue stesse intenzioni. Senatrice Puppato, quindi diceva, a proposito delle dimissioni che secondo lei, secondo Civati, avrebbe dovuto dare Alfano al tempo della Shalabayeva, no? Ricordiamo il dissidente kazako, avevano lasciato, da quello che si raccontava, scorazzare kazaki per il Ministero dell'Interno, che poi dopo hanno preso con sé la moglie di questo dissidente kazako, esatto, e la figlia, le hanno deportate, possiamo dire così, in Kazakistan. È tutto l'incidente diplomatico che c'è stato. Abbiamo avuto praticamente un'invasione, una microinvasione nel cuore dello Stato, però è stato invaso un pezzo degli interni e si sono appropriati, diciamo, delle forze di polizia italiane, hanno dato ordini, insomma siamo stati per un breve periodo. Secondo lei Alfano adesso difende la ministra Cancellieri per solidarietà in questo senso, oppure proprio perché pensa che non vi sia nessuna ragione per cui debba dimettersi? Ma io credo che l'asticella da lui posta sulla questione morale sia diversa dall'asticella che abbiamo noi. Perché voi adesso, Pippo Civati, quindi lei, senatrice Puppato, anche lei d'accordo, e altri civatiani, avete intenzione di domani proporre questa mozione di sfiducia, quindi non solo quella del Movimento 5 Stelle, volete averne una vostra, del PD, anche se Speranza, capogruppo alla Camera, ha detto che deve convocare prima una riunione per capire quale linea deve prendere il PD? Sì, infatti la mozione la presentiamo all'interno del gruppo del Partito Democratico perché vorremmo capire qual è la valutazione che ne fanno anche gli altri colleghi di partito, posto che lo stesso Renzi, per la verità, non ha avuto in questi ultimi giorni nessun dubbio, insomma, circa il fatto che la normalità di atteggiamento per un'istituzione di questo livello, stiamo parlando nel caso di Alfano di un primo ministro degli interni e vice primo ministro, per lei stiamo parlando, per la Cancellieri, della guarda sigilli, cioè colei che sostanzialmente è garante dei diritti in questo paese, insomma, e quindi ministro della giustizia, stiamo parlando di una delle massime cariche dello Stato. Che dice, senatrice Puppato, però adesso dei risultati per quanto riguarda la base, cioè i circoli, vogliamo dire gli ex l'ex sezioni del PC, per far capire meglio, insomma, per adesso sono quelli iscritti che hanno votato per i candidati alle primarie: Renzi al 46,7%, Cuperlo al 38,4%, Civati al 9,2%, Pittella al 6%, che forse Gianni Pittella, abbiamo avuto qui effetto notte, è stato venerdì sera, credo che abbia già capito che probabilmente, però Civati non si è distanziato tantissimo da Pittella. Beh, sono due storie profondamente diverse. Civati non è andato benissimo a sud, a nord abbiamo avuto situazioni in cui ci siamo praticamente appoggiati agli altri due, nel senso che nonostante la forza in campo sia obiettivamente minore, ma soprattutto, e questo va detto, queste siano, l'abbiamo definita convenzione, ma in realtà sono le prime primarie interne, perché andavano scelti tre candidati su quattro. Su quattro, quindi è una prima selezione, diciamo semplicemente. Una prima selezione ed erano solamente gli iscritti quelli che potevano permettersi di decidere, evidentemente. L'8 questo dicembre è molto, sono aperte. Ecco, no, ma è molto significativo, me lo lasci dire, perché normalmente, vede, gli iscritti al Partito Democratico sono coloro che, come dire, vivono il Partito Democratico, nel senso che ci lavorano, rendono il loro servizio volontario, organizzano le feste, organizzano i banchetti, si rendono disponibili per le discussioni, per le gestioni dei convegni, eccetera, eccetera. Quindi è gente che davvero, come dire, vive la vita di partito in modo spesso determinante, insomma, in modo molto coinvolgente. Bene, queste sono le figure che di più hanno risentito di questi mesi di difficoltà nel governo con il PDL. Queste sono anche le figure che spesso hanno deciso, magari temporaneamente, come tutti ci auguriamo, di non riprendere la tessera, perché critiche nei confronti appunto di questo atteggiamento, di questa modalità di fare di questo governo. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che la parte del Partito Democratico più critica nei confronti del governo, che è un po' quello che noi rappresentiamo, insomma, se vogliamo dirla tutta semplificando, Pronto? Sì, no, l'ascolto ecco. Molto attentamente. Pensavo di averla perduta. È la stessa parte che in molti casi ha scelto di non avere più la tessera. Cioè nostre difficoltà prima di questo momento erano che ci rendevamo conto che larga parte degli iscritti del Partito Democratico avevano fatto la scelta di andarsene, nel senso di non prendere più. Perché delusi da queste larghe intese? Che questi erano elettori in molti casi proprio di Pippo, insomma, iniziati, quindi. Senatrice, però siccome devo purtroppo chiudere, ma certo, ci risentiremo quando lei è disponibile, molto volentieri, comunque bisognerà vedere l'8 dicembre, quando ci saranno le effettive primarie aperte, se ci saranno delle sorprese con i tre candidati che si presenteranno. Ma ci sono già state, perché le forze in campo erano diverse e perché, ripeto, c'è questa precondizione e gli apparati non erano certamente né correnti né con tipo, insomma. Siamo ansiosi di vedere come andrà a finire. Intanto la ringrazio, senatrice Laura Puppato. Grazie. Grazie a voi, buonanotte. Grazie, buona continuazione. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Prima di collegarci con Parigi, vi ricordo i fatti principali. Il caso cancellieri Ligresti, i PM di Torino che si occupano dell'inchiesta sulla famiglia Ligresti dicono la ministra non è indagata, il presidente del Consiglio Letta fa sapere in caso di novità valuteremo. C'è il maltempo con un ciclone che si è abbattuto sulla Sardegna, muore una donna, 5 sono al momento i dispersi. Spending Review, il piano del commissario straordinario per la revisione alla spesa è stato presentato, il ministro Saccomanni annuncia tagli per 32 miliardi in 3 anni. Partito Democratico, abbiamo appena sentito la senatrice Puppato, dal voto nei circoli arriva per il momento la prima vittoria per Renzi. E poi per il calcio, amichevole a Londra tra Italia e Nigeria, per il momento conduce la Nigeria 2-1. Intanto invece per la questione del fuggiasco di Parigi ci colleghiamo direttamente con Marco Musseret, corrispondente dalla capitale francese per il Sole 24 Ore. Ciao Marco. Ciao a voi, buonasera. Ci sono novità in questa caccia all'uomo abbastanza, forse senza precedenti negli ultimi anni a Parigi, credo, no? Beh sì, a Parigi sicuramente, ovviamente la memoria di tutti va alla caccia all'uomo, quella di Merà, a Marsiglia, ma insomma una storia completamente diversa. Sì, non ci sono comunque novità per il momento, la caccia all'uomo continua, centinaia di poliziotti sono tuttora impegnati a cercare di rintracciare questo uomo, questo misterioso personaggio che ha sparato, ricordiamo, nella redazione di Liberation, del quotidiano della gauche. Sì, ha sparato, in realtà sì, la cosa strana e inquietante è che c'è un episodio precedente che risale a venerdì mattina, perché lo stesso uomo venerdì mattina molto presto, prima delle 7, ha fatto irruzione nella sede di una televisione di informazione in continuo francese BFM, minacciando con un fucile le persone che c'erano in quel momento. È ancora scorazza libero. E stamattina effettivamente sì, stamattina ha sparato e ha ferito gravemente un fotografo nella sede di Liberation, poi ha sparato di nuovo davanti alla sede della Société Générale, che è la terza banca francese, alla Défense, e la polizia lo sta cercando. Non si sa molto di questo personaggio, anche perché l'unica testimonianza di cui si dispone è quella di un automobilista che è stato preso in ostaggio appunto la Défense, è costretto a trasportare quest'uomo fino ai Champs-Élysées, e secondo le testimonianze di questo automobilista questo signore ha detto di essere uscito da poco di prigione, di avere degli esplosivi con sé, delle bombe a mano in una sacca che porta con sé, che si vede bene anche tra l'altro nei episodi televisivi, di essere determinato e pronto a tutto. E allora speriamo che in prigione ci torni presto, insomma. Assolutamente. Grazie Marco Mussanè, e mi raccomando, mettiti in sicurezza, sii prudente lì. Ciao Marco. Grazie a voi, ciao. Ciao. E adesso invece saluto in questi 2 minuti che ci restano Alberto Crespi, volevo un po' in leggerezza chiudere. Ciao Alberto. Buonasera. Critico, noto critico cinematografico, per svelarci il segreto di Checco Zalone, che sta raggiungendo quasi 55 milioni di euro di guadagni con il suo film Sole a Catinelle. In questo minuto e mezzo qual è il segreto? Svelacelo tu, Alberto. Beh, certo, il segreto non è facile, forse non lo conosce neanche Cozzalone, che era molto timoroso prima che il film uscisse e temeva di non raggiungere gli incassi del film precedente, Che bella giornata. Invece Sole a Catinelle li sta battendo e ormai ha nel mirino James Cameron, perché gli unici due film che hanno incassato più di lui sono Avatar e Titanic, pensate un po'. Cioè nella storia del cinema mondiale? Del cinema in Italia, in Italia. Mercato italiano, naturalmente, nel mondo si parla di ben altri numeri. Il segreto credo che stia nella simpatia del personaggio e nella sua scorrettezza politica, perché le altre commedie che stanno uscendo in questo periodo totalizzano incassi normali, quindi non ci si può ridurre al consueto luogo comune degli italiani che vogliono ridere. Con Checco Zalone evidentemente c'è qualche cosa in più delle risate, c'è lo sberleffo nei confronti dei potenti, per esempio, perché l'ultimo film è chiaramente un film sul berlusconismo e sulla satira di ciò che siamo stati in questi ultimi 20 anni. C'è qualche cosa di più sull'identità di noi italiani, sulla nostra società e su cosa siamo diventati negli ultimi 20 anni in Checco Zalone rispetto agli altri comici di questo momento. È un fenomeno da non sottovalutare. E infatti non lo so, pare che gli italiani non l'abbiano sottovalutato, continua ad andarlo a vedere al cinema. Grazie Alberto Crespi, quindi risate, ma anche perché probabilmente ci specchiamo nella nostra parodia, evidentemente. Grazie Alberto. Grazie a voi. Grazie, ciao, buona continuazione. Noi continuiamo tra poco, nel senso che ci fermiamo adesso, poi rientro per ricordarvi i fatti principali. Tra poco.